La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci insieme all'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti. Questa è La rosa purpurea. Ci avviciniamo vorticosamente verso il Natale. Questa è praticamente la penultima puntata prenatalizia e quindi cominciano ad arrivare i film che animeranno la battaglia del botteghino natalizio, di Capodanno, dell'Epifania, eccetera, eccetera. Sei nuove uscite questa settimana, ne parleremo diffusamente durante la trasmissione, cominciando da quella che per tanti motivi è sicuramente l'uscita più importante, quella più attesa, quella che molti aspettano, ovvero il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo con Il ricco, il povero e il maggiordomo. Un'altra favola, se vogliamo, no? Una favola morale, potremmo chiamarla, chiaramente in salsa comica. Cominciamo ad ascoltare questa clip e fra poco ne parliamo con Giovanni Storti. Manca solo il nome. Dal minchia! Che idea! Geniale! Una vita che ci penso, due sillabe erano! Ma com'è che non mi sono venute? Magari sei tu il minchia, eh? Più della buonanima di tuo padre Gaetano, che la bancarella almeno ce l'aveva. Se volete succare, succatevi me lupini! Donne belle, venite! Venite che ho tutti i prodotti della nostra terra! Ha ragione mamma, sei un minchia! Questa era la voce di Aldo, il venditore ambulante, ma insieme a Giacomo, il broker, e a Giovanni, il suo maggiordomo, sono gli animatori e gli attori di questa... di questa storia, di una storia che è molto figlia dei nostri tempi, che racconta un fallimento, un crollo improvviso, questo di un broker, forse senza molti scrupoli, che a un certo punto si trova ad avere bisogno degli altri, cosa alla quale non è assolutamente abituato. E i tre malcapitati capiscono che forse la solidarietà è la chiave per rimettere tutto in piedi. Saluto Giovanni Storti in collegamento con noi qui alla Rosa Purpurea. Ciao Giovanni! Ciao a tutti, sei stato veramente esaustivo. Ecco, andiamo a casa, no, dai, stai qui con noi un attimo. Hai raccontato perfettamente che cosa tratta il film. Ecco, no, infatti la cosa che mi interessa, perché chiaramente la gente si attende da voi le risate, questo è stato sempre un vostro punto forte, devo dire, la banda di Babbi Natale vi ha riportato un po' agli allori di un tempo, però mi sembra che un'altra cosa che da tanto tempo mettete nelle vostre storie, a me piace ricordare sempre Chiedimi se sono felice un po' come esempio di quello che sto per dire, è la possibilità che insieme alla risata magari una piccola riflessione ogni tanto venga fuori, nella vostra genuinità, la vostra spontaneità, che però questo ci sia. E questo film mi sembra che parli molto all'Italia di oggi, cioè a quello che è rimasto, se vogliamo, un po' dell'Italia di oggi. Beh sì, diciamo che Giacomo in persona, questo ricco broker, ma in realtà è simbolo dell'avidità e dell'irresponsabilità. Infatti quando crolla si trascina da irresponsabile tutti quelli che attorno, compreso il maggiordomo, che è un po' quello che a cui fa perdere i sogni, si deve sposare con questa sudamericana che in realtà gli scade il permesso di soggiorno e deve tornare in Sud America, incontrano fortuitamente, in realtà lo investono, Aldo in macchina, che è un bancarellaro che addirittura si pittura di nero per poter lavorare, perché sennò non riuscirebbe a vendere niente al mercato. E da questo disastro praticamente arriva la consapevolezza e quindi la solidarietà e la collaborazione portano poi a realizzare un piccolo sogno, diciamo, avere un po' più di visione della realtà vera, ecco. Colpo di Stato, default finanziario. Non affidi mai il suo denaro a governi instabili. Ho perso tutto, momentaneamente. Cioè, perso tutto? Vuol dire che non è rimasto più niente. Ah, c'è un'altra cosa. Mi hanno commissariato alla società, sempre momentaneamente. Ma dottore, vuol dire che anche la mia liquidazione è sparita, svanita? Svanita. Cioè non è rimasto proprio niente? Assolutamente. È finita? Si sfoghi. Ma come si sfoghi? Non trattenga quell'amarezza, che non le fa bene, ma, sa? Ma dottore... Ma non si soffermi sul bicchiere mezzo vuoto. C'è anche il cinismo, Giovanni, di chi da un punto presunto di forza cerca di tranquillizzarti, no? In fondo io la capisco, ecco, questa è una scena abbastanza, come dire, sintomatica anche del momento, no? Sì, beh, questa è una scena tra l'altro molto comica, una delle scene che mi piace di più, dove Giacomo appunto completamente irresponsabile, perché quelle persone così avide non hanno una visione della realtà completamente distorta. Per loro esiste solo il loro mondo e quindi non capiscono che appunto la realtà è un'altra e si trascinano così dietro tutti i disastri di quelli che li circondano. E lì appunto Giacomo praticamente sta dicendo: non ti preoccupare, nonostante sia gli abbiamo portato via la società, la casa, la macchina e tutto, gli dice: non preoccuparti, vedrai che ce la caveremo. In realtà poi non riusciranno assolutamente a cavarsela in quel modo lì. Senti, avranno bisogno di una spinta diversa. Esatto, ma non svegliamo troppo, sennò ci accusano di fare spoiler. No, allora, però una cosa era interessante, da 20 anni, da 25 anni, insomma, ormai voi siete un po' un sinonimo di Milano, siete fra i primi che l'hanno, certo, nell'era moderna, diciamo, risdoganata al cinema, guardandola da un altro punto di vista. Come l'avete vista cambiare anche in questo film, che chiaramente ha i quartieri di Milano come sfondo? Beh, è cambiata molto. In questo film cerchiamo di trovare i contrasti tra questa zona molto ricca che è nata adesso, dalla piazza Gaio Lenti, questi grattacieli esagerati dove appunto vive Giacomo, questa sua grande villa e questi suoi posti, e invece una Milano più popolare, dove in realtà abbiamo vissuto noi veramente, la Milano dei cortili, la Milano appunto più popolare, se vuoi più viva, ecco, meno rarefatta. Che è cambiata perché mentre prima raccontavamo un po' più degli angoli sparuti del centro, molto, molto antiche, così adesso abbiamo cercato di raccontare il contrasto maggiore che c'è fra la ricchezza e la povertà, ecco, anche dei mercati. Certo, infatti comunque zone di Milano, io vi ho visti girare quest'estate, vi incontravo ogni tanto sui set, sempre nelle quali appunto il contrasto è quello che vale, no? I grattacieli di vetro sullo sfondo e gli archi delle porte magari in primo piano, che sono un po', certo, la ricchezza forse della città oggi. La rosa purpurea. Dottore, ma se proprio non sapete dove andare, posso ospitarvi io. Ringrazio molto, signore. Aldo. Riuscirò a trovare un alloggio adeguato. Figuriamoci se questa cosa rappresenta un problema per una persona come me. Sì, ma... Le nostre strade si dividono qui. Scusa! Posso chiedervi quando mi darete i miei soldi? Certo, però non me lo puoi chiedere, ma non e è detto via. Che ti rispondiamo, esatto. E allora siamo ancora insieme a Giovanni Storti, Aldo Giovanni e Giacomo, il ricco, il povero, il maggiordomo. Volevo farti un'altra domanda, Giovanni. Voi avete anche nei vostri film spesso affidato la regia a giovani che avete di fatto lanciato. Succede anche stavolta con Morgan Bertacca, che di fatto firma, diciamo, la regia insieme a voi. Come è nato questo rapporto e che tipo di sforzo deve fare un giovane regista per adeguarsi ai tempi e ai modi di un trio consolidato come voi? Beh, in realtà Morgan lavora da noi da parecchio tempo. Lui ha fatto per diversi anni il backstage, ha collaborato con noi alla sceneggiatura della banda di Babbi Natale, poi ha fatto la regia tecnica dello spettacolo teatrale che è andato in TV, per cui insomma è da noi un po', poi ha firmato anche lui la sceneggiatura, ci sembrava, cioè noi teniamo molto la squadra, se ci troviamo bene diamo e otteniamo parecchia fiducia, per cui ci tenevamo che lui potesse fare la regia di questo film, che poi è stata una grande collaborazione, soprattutto anche con Valerio Bariletti, che è uno degli altri sceneggiatori. È stata una regia quasi corale, certo lui era dietro la macchina da presa, per cui è quello che è contato di più, però è stata una grande collaborazione, sì. E allora, il film della settimana qui alla Rosa Purpurea, Il ricco, il povero e il maggiordomo. Io ringrazio tanto Giovanni Storti per la sua cortesia, per essere stato con noi, insomma in bocca al lupo per questa favola natalizia. Grazie a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. E allora, questo era il fine della settimana. Grandi ospiti alla Rosa Purpurea, ne avremo ancora fra qualche minuto. Andiamo invece a parlare di un altro film, di quelli di questa settimana, che si intitola La storia di Cino. Ascoltiamo la clip. Papà, io non ho paura di andarci in Francia. Ci vuoi andare davvero? Voglio andarci. Ma che cos'hai nella testa? In Francia ci faranno sputare sangue. La prego, si prenda questa qui. Si chiama Kathleen. E cosa ci faccio con una bambina? C'è una zia che di notte si trasforma in una gatta. Non è che anche tu sei una strega? Forse sì, forse no. Kathleen! A te da grande, cosa piacerebbe fare? Non credo di diventare mai grande. È una storia d'infanzia, l'avete sentito anche da questo estratto dal trailer. Cino, il film di Carlo Alberto Pinelli, in uscita. È una proposta natalizia diversa, direi anche per famiglie, perché racconta l'infanzia, come hanno provato a fare negli ultimi anni diversi film, anche documentari internazionali, cioè raccontando lo sforzo di essere bambini, la fatica di diventare grandi, e non tanto magari di bambini della nostra civiltà opulenta occidentale, ma in questo caso per esempio un viaggio nel passato. Siamo nel Piemonte di fine 800, quando anche l'Italia era un paese molto molto difficile, sicuramente più difficile di adesso, per un bambino. Il piccolo Cino, 9 anni, figlio di montanari, siamo nel Cuneese, viene addirittura affidato a un carrettiere francese che lo porterà in Francia e lo affitterà letteralmente per lavorare negli alpeggi estivi. Ma durante il viaggio, avete sentito anche dalla clip, stringe amicizia con una bambina della sua età, che poi durante il percorso si ammalerà e verrà addirittura abbandonata. Insomma, c'è un'infanzia violata chiaramente di fine 800, che però dice molto anche alla nostra società di oggi. Siamo in collegamento con Boris Sollazzo, che saluto. Ciao Boris. Buongiorno Franco, buongiorno a tutti. Abbiamo voluto mettere questo film, La storia di Cino, in alto nella nostra scaletta, perché è importante sottolineare gli sforzi che spesso un regista e una produzione fa per raccontare storie diverse, ma con un amore e una classe che vengono fuori a ogni fotogramma. Hai assolutamente ragione, è veramente una sorpresa inaspettata, perché ci si aspettava magari un film povero, un film anche ingenuo, e invece ci si ritrova di fronte a un piccolo gioiello. È come Cino, è un bambino di 9 anni che compie un'impresa incredibile, perché comunque attraversa le Alpi e allo stesso tempo un po' Pollicino, un po' Pinocchio, è sottoposto a imprese più grandi di lui, che comunque lui riesce a domare. Lo stesso fa Pinelli, che con poche risorse ma molta intelligenza e molto talento, Pinelli ha utilizzato tutte le sue doti, veramente, non solo cinematografiche. È un alpinista, ha lavorato per Geo, ha lavorato con e per Folco Quilici, e qui si vede tutto, riesce ad utilizzare le sue doti, le sue qualità davvero al meglio, e a restituirci un paesaggio umano e non, che in qualche modo ci schiaccia, perché quel bambino violato è un'infanzia violata che racconta sì una storia antica, no? Una storia di sfruttamento minorile che sembra depositata nella nostra memoria, ma che in fondo poi è molto vicina a quello che succede nel sud del mondo, alle periferie del mondo, e spesso e volentieri anche a pochi chilometri da noi che ascoltiamo. E è molto bello e molto forte quello che vediamo, è molto azzeccata la qualità del casting, le facce sono quelle giuste, e la regia è allo stesso tempo matura ma leggera, non leggera in quello che racconta, ma leggera nel non essere mai invadente, nel dare spazio a questa che è una favola, per quanto nera, ma che rimane una favola, che appunto, se vogliamo semplificare, viaggia tra Pollicino e Pinocchio. E questo è giusto forse dare, come hai fatto tu, come abbiamo fatto noi, dare questo spazio in alto in questo periodo prenatalizio, perché a volte la storia natalizia non è la storia Disney, a volte la storia natalizia non è il cinepanettone, a volte la storia natalizia è una storia vera come quella di Cino, raccontata bene. Ebbene, allora, promosso La storia di Cino qui alla Rosa Purpurea, è arrivato il momento di cominciare a giocare, perché giochiamo tutto l'anno, figuratevi quando si avvicina Natale. E allora ascoltiamo la prima clip del film misterioso di oggi. Hanno mandato la pubblicità, ti puoi alzare. La schiena mi fa male. E anche il culo. Mi sembra di avere un coltello. Cazzo! Muovi i piedi. Dove senti dolore? Lì dove stai toccando. E allora, avete già intuito, indovinato di che film si tratta? Provate a scriverci alla Rosa Purpure, a @radio24.it, con il titolo del film e il vostro indirizzo. Ci sono due copie in Blu-ray che vi aspettano e che sveleremo la prossima settimana. Più tardi però vi daremo un'altra possibilità. E allora siamo arrivati a un altro dei film diversamente natalizi di questa settimana. Parliamo di Pride di Matthew Warchus con Bill Nye, Imelda Staunton, Dominic West, un grande cast variegato per raccontare una storia vera, quella della Londra del 1984, nella quale una comunità gay molto solidale si affianca alla battaglia in difesa dei minatori in sciopero contro i tagli della Thatcher. I minatori sono entrati nel quarto mese di sciopero, ma il governo ribadisce che chiuderà, come annunciato, 20 pozzi con la perdita di oltre 20.000 posti di lavoro. Queste comunità di minatori sono prese di mira, esattamente come noi. È la cosa giusta da fare. È l'Inghilterra degli anni Ottanta. Da una parte lo sciopero dei minatori, dall'altra la comunità gay e lesbica, che vuole sempre più far sentire la propria voce e rivendicare i diritti, non solo quelli che sente più vicini. È così che, non senza dubbi e diffidenze, ragazzi e ragazze partono da Londra e vanno nel Galles. Siete i primi gay che incontrano. E voi i primi minatori che abbiamo mai conosciuto. Tutto il paese ci ride dietro. Andrà tutto bene quando cominceranno a parlarsi. Ma che cavolo pensi di fare? Vatti a cercare un gay o una lesbica, cammina. Ma poi si fanno un'idea sbagliata. Ma certo, perché tu sei talmente irresistibile. I gay raccolgono fondi, ne raccolgono più di ogni altro gruppo di sostegno, e i minatori alla fine li accettano e saranno con loro al Gay Pride dell'anno successivo, in testa al corteo. Quando fai una battaglia contro un nemico tanto più forte, tanto più grande di te, scoprire di avere un amico di cui non conoscevi l'esistenza è la più bella sensazione del mondo. Quello che mi hanno detto sulle lesbiche mi ha lasciato di stucco. Ma siete tutte vegetariane? Insieme si raccontano le storie del giovane Joe, che ancora non ha rivelato di essere omosessuale in famiglia, di Mark, guida del gruppo, della coppia Gethin e Jonathan. Lo interpreta un Dominic West ballerino. Sul fronte minatore ci sono Paddy Considine, Imelda Staunton e Bill Nighy. Pride è il titolo di questa pellicola, già passata a Cannes e premiata in patria come miglior film indipendente, oltre che candidata ai Golden Globe. Pride, che ovviamente fa Gay Pride, ma fa anche un po' Jane Austen se lo si avvicina al Prejudice, perché l'orgoglio, che sia quello della comunità gay o quello dei minatori, va sfortunatamente a braccetto con un pregiudizio diffuso. There's power in the factory, power in the land, power in the hand of the worker. Commedia gradevole che entra nel filone dei film britannici in debito con La signora Thatcher, da Billy Elliot a Full Monty, passando per Ken Loach. Una commedia che non risparmia in cliché su una categoria e sull'altra, sfiorando soltanto i temi più gravi, come quello dell'AIDS. E allora, il racconto di Chiara Pizzimenti di Pride, un altro dei film più attesi di questo Natale, proprio perché, come ha detto prima, diversamente natalizi, come li abbiamo definito. Diamo un'occhiata al box office che incontrano questi film alla loro uscita, un box office ancora dominato in Italia dai Pinguini di Madagascar, che tengono saldamente il primo posto e arrivano quasi a 6 milioni di euro di incasso dall'inizio del loro sfruttamento. Parte bene Magic in the Moonlight, nonostante non abbia ricevuto critiche esaltanti anche da noi qui alla Rosa Purpurea, però la partenza è buona, 1,5 milioni nel primo weekend di programmazione, tanto che ha fatto meglio di Scemo e più Scemo 2, che invece sono partiti maluccio, e invece resiste al quarto posto, Scusate se esisto, di Riccardo Milani, ormai in sala da parecchi giorni, con quasi 5 milioni raggiunti. La commedia con Raul Bova e Paola Cortellesi sta funzionando più piuttosto bene. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, la Rosa Purpurea, terza parte del nostro programma, e come annunciato un altro ospite qui con noi a raccontarci un film italiano. Abbiamo definita la settimana un po' diversamente natalizia, perché come avete visto, al di là di qualche film di grande impatto popolare, però ci sono molte proposte che escono in questo periodo, ma escono anche da questo periodo, e la cosa ci fa molto piacere. Sicuramente il caso di Neve di Stefano Incerti, un'atmosfera noir che racconta sullo sfondo di paesaggi innevati, forse proprio per contrasto, un'Italia invece con una vena nera interiore. Sentiamo la clip. Tu lo sai che c'è un posto che io devo trovare. So che hai fatto una rapina. E che altro sai? Che non sei un rapinatore. Fa l'infermiera, lo sapevi, no? E tu come lo sai? Mi piace tenermi informato. Ma questo amico tu, qua, è venuto a fare? Una bella vacanza sulla neve. Dentro c'era un Michele. Parlava di una banca, di una piazza, di un morto e di tanti soldi. E allora, avete sentito un po' gli ingredienti, le suggestioni della clip. È con noi il regista Stefano Incerti, che saluto. Ciao Stefano. Ciao a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito e per essere qui alla Rosa Purpurea a parlare di questo Neve. È interessante il fatto che il cinema italiano ogni tanto si ricordi di essere stato un grande cinema di genere, o comunque di essersi fatto pervadere dal genere, diffondendolo dentro le proprie anime, no? E mi sembra che è un po' l'operazione che hai fatto tu con questo road movie noir di due anime sole che proprio attraverso le rispettive solitudini riescono a diventare una cosa quasi, quasi unica. Come hai lavorato a questo progetto e come hai deciso soprattutto di spostare l'asse narrativo ed espressivo del tuo film su un territorio così poco frequentato come quello del noir psicologico, diciamo così, latente nel cinema italiano? Sì, io devo dire, quando incomincio a lavorare un film non scelgo il genere fin dall'inizio, cioè in pratica è la storia e i personaggi che in qualche modo mi indirizzano, e alla fine, come dire, quella del noir forse è una etichetta anche stretta al film, ma mi sta bene, nel senso che mi piace lavorare all'interno del genere. Tra l'altro noir avevano definito addirittura Gorbaciov, che poi invece, come dire, è un film che ha un'altra collocazione, un'ambientazione napoletana e sicuramente, come dire, anche lontana dai cliché e dagli standard del noir. In questo caso, insomma, io ho pensato immediatamente a questi due piccoli personaggi colti in un momento molto delicato della loro vita, quindi sotto pressione. Questo perché sono convinto che appunto dei personaggi in difficoltà sono più autentici, che sono quindi più interessanti da raccontare drammaturgicamente. Ne ho come dire, fatti incrociare le strade. In particolare lui è uno che sta cercando una refurtiva, quindi il bottino di una rapina, e questo già dà un alone di mistero, no, all'andamento della storia. Lo fa per dei motivi nobili, non per avidità. E pian piano, quindi, anche la scrittura, che all'inizio era più rarefatta nei dialoghi, perché i due personaggi all'inizio si studiano, quindi attraverso sguardi, silenzi, che poi è il cinema che mi piace di più, perché penso che la parola, il linguaggio, il dialogo fitto sia più da, come dire, espressione teatrale che non del cinema. Insomma, in qualche modo il fatto che si svelassero gli elementi di questa ricerca pian piano ha fatto sì che il film assumesse questo tono e quindi assomigliasse appunto sempre di più a un noir, come dire, curioso, strano, più come dire, forse probabile nella filmografia, che ne so, di un finlandese. Però come dire, credo che sia alla fine anche il terzo personaggio, questa ambientazione nevosa, fredda, ghiacciata, un elemento che ha dato alla costruzione una sua originalità e quindi forza, insomma. No, questa della neve, tra l'altro, è un elemento fortissimo appunto nel film, ed è un paesaggio, un elemento che sostanzialmente ricopre un po', potremmo dire, l'Italia di oggi, la provincia italiana di oggi nel tuo film. Quali magagne, come diciamo dalle nostre parti, sono state coperte dalla neve per te? Cioè, qual è l'Italia che la neve copre, rendendola forse anche più accettabile? purtroppo tante, insomma, il discorso sarebbe lungo, il film ovviamente non vuole avere un taglio sociologico, insomma, si occupa ovviamente anche di denaro, e in un momento di crisi come quello che sta avvenendo nel nostro paese sappiamo bene quanto il denaro faccia culo a tanti. Nel film in realtà mi serviva, come dire, anche usare la neve per quello che fa sulle psicologie delle persone, rallenta i movimenti ma ottunde anche un po' il pensiero, ovatta con strane sonorità, no, il percorso, quindi, come dire, mi serviva che in qualche modo perfino gli attori ne fossero, come dire, ne subissero le conseguenze. E ho scritto fin dall'inizio appunto immaginando questo paesaggio, che è vero che è della provincia italiana ma non è mai raccontata, cioè non si dice mai che siamo in Abruzzo, che siamo nel centro d'Italia dove ho girato, né in quale zona, perché volevo che fosse un film appunto che avesse una sua assolutezza, che potesse essere tratto, come dire, vicino a certe storie di Dürremat in Svizzera o di Simenon o di Chabrol, insomma quegli autori che si sono occupati sempre di piccoli delitti, di piccole storie che però hanno una grande umanità e forse una universalità, ecco, questo provavo a fare. Certamente. Ecco, un'altra cosa che mi interessa è che nel tuo film, abbiamo detto prima quanto sia o non sia noir, qualcuno ha definito anche thriller, ma insomma non è per dare delle etichette, però come la domanda non sia la classica domanda chi è l'assassino, cioè chi è stato, ma sia cos'è successo, cioè cos'è successo, cioè quello che c'è da scoprire è cos'è successo nelle psicologie dei due personaggi. Sì, infatti volevo, come dire, mantenere ovviamente un forte approfondimento psicologico, cioè la cosa che mi interessava di più non era il plot e quindi la trama tout court, ma le psicologie di questi due personaggi, di queste due anime un po' con le spalle al muro, in pena, cioè, come dire, due personaggi che normalmente il cinema relegherebbe a un ruolo di secondo piano, non sono eroi, non sono figure di spicco, sono persone ai margini, ecco, senza essere emarginati, quindi non sono neanche di moda, ecco, in questo periodo, perché poi talvolta la emarginazione diventa anche un motivo di, invece loro no, sono, e quindi non volevo, come dire, cavalcare assolutamente, no, la trama avvincente, però mi rendevo conto che pian piano, anche differendo verso la fine, lo scioglimento di certi enigmi e soprattutto utilizzando la classica cifra della ricerca, no, attraverso una mappa delle tappe, quindi con degli indizi, si poteva tenere alta la tensione e quindi, come dire, ho sentito che questo vestito, la forma del film, potesse essere quella giusta, per modo che c'è una prima lettura che è quella più, come dire, diciamo avvincente, che è della trama, e una seconda in profondità che poi era quella che mi interessava, che da questo sviluppo viene fuori in maniera ancora più evidente. Stefano, a bruciapelo, sei contento dell'uscita natalizia? Allora, ho cominciato questo lavoro 19 anni fa come regista col verificatore e vi assicuro che mai pensavo che sarei mai uscito sotto Natale. Questo è il mio film di Natale, è un film di Natale malgrado me, ecco. Sono contento perché ovviamente per ambientazione il film ha una perfetta collocazione, insomma neve che esce ad aprile, a maggio, a giugno è improbabile, insomma. Ovviamente conosco il mercato italiano, so che il film combatte con pellicole che hanno 30 volte le copie di neve, 600 e passa, e quindi, come dire, in questo caso deve essere un po' anche il pubblico a cercare, ma con la stessa, come dire, abilità che ha lo spettatore di andare a trovare il piccolo film iraniano. Ecco, mi piacerebbe che il film fosse considerato non un film italiano, ma un film, come dire, di una cinematografia diversa, strana, finlandese, ok, che va, come dire, cercato anche nella sua programmazione di sé, che è una programmazione che tra l'altro grazie a delle sale in Italia riesce ancora a fare numeri, perché propone appunto dei film secondo me sempre interessanti e originali. Certamente, certamente, questo va assolutamente appoggiato. Allora ricordiamo Roberto De Francesco, Ester Elisce, Massimiliano Gallo nel cast, dirige Neve, Stefano Incerti. Grazie Stefano di essere stato con noi. Grazie a voi, ciao, grazie. E allora siamo a questo punto alla seconda traccia del film misterioso di oggi. E scopri che la vita è un gioco di centimetri. E così è il football. È vero, ha ragione. Perché in entrambi questi giochi, la vita e il football, il margine di errore è ridottissimo. E allora una voce inimitabile e anche inconfondibile, un tema che è quello del gioco e chissà di cosa stiamo parlando. E allora La Rosa Purpurea, @radio24.it, diteci di che film si tratta. Ci sono due copie del Blu-ray in palio per i primi due ascoltatori più veloci che indovineranno. Più tardi noi invece vi faremo ascoltare, vi sveleremo come è andato a finire il gioco di 7 giorni fa. E a questo punto parliamo di storie pazzesche. Quell'uomo abitava al mio paese. Un usuraio. Un mafioso. Ci ha portato via la casa. È per colpa sua che mio padre si è suicidato. Sai quante volte ho sognato di trovarmelo così? Davanti, sotto mano. Io gli devo dire qualcosa. Dire? Per colpa sua tuo padre si è suicidato, è l'unica cosa che ti viene in mente è insultarlo. Perché non gli mettiamo del veleno per topi nel piatto? Film collettivo con lo zampino della produzione di Pedro Almodóvar, Storie pazzesche, è il film, un altro film anomalo passato al Festival di Cannes questa volta, un film collettivo perché sono tanti gli episodi che lo compongono. Boris Sollazzo ancora con noi. Boris, allora cosa possiamo raccontare di questo esperimento? Una volta il film collettivo era quasi un genere che è un po' scomparso, se vogliamo, dai nostri radar. Questo Storie pazzesche di Damian Zifron cerca di riportarlo in auge. Beh, decisamente sì, e lo fa davvero con bravura, nel senso che consiglio a tutti di non sbagliarsi, nel senso Pedro Almodóvar lo presenta e lo produce, ma non è, appunto, come hai detto tu, il regista, visto che ho notato che molti si sbagliano. È un po' quell'usanza che si aveva qualche anno fa con Quentin Tarantino, lo ha visto mentre pranzava o cose del genere. E detto questo, però, il marchio di Almodóvar un po' c'è, anche se virato con la cattiveria più sudamericana, perché è un grande racconto diviso in 6 atti sulla vendetta. Qui più che la vendetta è un piatto da gustare freddo, la vendetta è un piatto da gustare completamente pazzo, nel senso che ci troviamo di fronte a uomini e donne sull'orlo di una crisi di nervi, e ancora che torna Almodóvar, e che fanno di tutto pur di prendersi la rivalsa che vogliono, e arrivano a livelli che forse solo il cinema può mostrare, può darci, con questa vitalità, con questa forza e anche con questa cattiveria. Storie pazzesche riesce molto bene a calibrare comicità, dramma e appunto follia. Lo fa anche grazie a un cast straordinario, ne cito uno perché probabilmente lo conoscono tutti anche qua, che è Riccardo Darren, ricordo Il segreto dei suoi occhi, che è uno dei tanti capolavori che ha interpretato, ma davvero sono tutti bravissimi. È un film diverso per struttura, come ricordavi tu, ma anche perché ha un tono molto particolare, che potrebbe essere un Tarantino, un Chitano declinato in chiave sudamericana, e che alla fine si fa vedere con grande gusto. Se proprio gli si vuole trovare un difetto, è che la soluzione dei 6 capitoli, delle 6 storie, rende piuttosto facile il lavoro di scrittura, sia visiva che narrativa. Ma quando poi viene tutto così bene, ben venga anche un film che non si prende la responsabilità di portare avanti 2 ore la stessa storia. La Rosa Purpurea. Ancora qui La Rosa Purpurea, fra poco tutto il cinema da vedere in casa, ma è in collegamento ancora con noi Boris Sollazzo. Ti ho lasciato, Boris, la chicca veramente alla fine, ma tu di che segno sei? Io personalmente Cancro, qui Neri Parenti decide, insomma, di lasciare Aurelio De Laurentiis, però di non lasciare quella cifra stilistica, e devo dire, non pensavo che l'avrei mai detto, ma probabilmente a Parenti manca proprio De Laurentiis, manca quella spregiudicatezza verbale e comica che rendeva magari la pellicola più pesante, ma anche con un profilo più chiaro. Qua si vuole sfruttare l'ossessione moderna per l'oroscopo, declinandola in 5 capitoli diversi, francamente decisamente morbidi, soft e poco divertenti. Se si esclude qualcosa di Proietti, che però è costretto a gag fisiche che non rendono giustizia al suo talento, e a Ricky Memphis, però io avevo grande fiducia in un Neri Parenti finalmente libero dal gioco Film Auro, ma devo ammettere che insomma sembra aver perso lui nell'essere andato via, e un po' dispiace per la simpatia del regista. E allora, attendendo la prossima regia di De Laurentiis direttamente in un cinepanettone di prossima fattura, io ringrazio e saluto Boris Sollazzo, ci sentiamo settimana prossima, abbiamo ancora una bella settimana di film di Natale il prossimo weekend. Ciao Boris! Alla prossima settimana e buon cinema! E allora, per dirla con Mozart, il catalogo è questo, però c'è un po' di segnalazione da fare, c'è un po' di cose da dirvi. Una riguarda il Sole 24 Ore, quindi riguarda noi, perché in edicola ogni martedì, da martedì 16 dicembre, da martedì prossimo, ci sono i classici del cinema comico internazionale del passato. Si comincia con Totò, è un'opera davvero importante, 37 uscite, tutti i martedì, e pensate, solo 50 centesimi più del prezzo del giornale. È davvero interessante, perché con 2 euro vi portate a casa Il Sole 24 Ore, La Grande Informazione e un film dei grandi comici del passato. Dicevo, si comincia con un vero e proprio omaggio a Totò, che occupa tutta la prima parte della collana, e poi si va avanti con Charlie Chaplin, Stanlio Ollio, Buster Keaton, eccetera, eccetera. Quindi non mancate, d'ora in poi, per 37 martedì, ne avete di tempo, l'appuntamento del martedì in edicola con Il Sole 24 Ore. E poi voglio anche raccontarvi di due retrospettive veramente prenatalizie, ma di grande pregnanza cinematografica, alla Cineteca di Milano, perché dall'8 al 23 dicembre al Museo Interattivo del Cinema, la Cineteca Italiana presenta Hello Barbara, rassegna dedicata alla grandissima Barbara Streisand, 8 suoi capolavori, e quindi andateveli a rivedere perché sono sempre uno spettacolo per gli occhi. E poi invece, contemporaneamente, sempre alla Cineteca ma allo Spazio Oberdan, Stanley Kubrick in lingua originale, una occasione unica per rivedere capolavori come Il Bacio dell'Assassino, Rapina a mano armata, Strano Amore, 2001 Odissea nello Spazio, Lolita, eccetera, tutti in lingua originale, dal 10 al 23 dicembre. Quindi davvero una bella scorpacciata di grande cinema per chi può raggiungere Milano, appunto, in questi giorni. A questo punto noi invece ci spostiamo in territorio televisivo, andiamo davanti al piccolo schermo e insieme a Giulio San Giorgio parliamo delle segnalazioni on video e in TV, cominciando dal gioco della scorsa settimana. Togliete la parola anche al vostro assessore, tanto avete le mani sporche. Le nostre mani sono pulite! Sono pulite! Ci sembrava la settimana giusta per parlare, per proporvi l'uscita in un video di Le Mani sulla Città di Francesco Rosi, capolavoro assoluto, che hanno indovinato per primi e quindi si porteranno a casa l'ambito DVD Vito Miraglia di Matera e Dario Bonifacio di Mozzo, provincia di Bergamo. È con noi Giulio San Giorgio di Film TV. Giulio, grande capolavoro, raccontaci l'edizione un video. Sì, ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, è uno dei grandi film della storia del nostro cinema, firmato da Francesco Rosi, che definire semplicemente un regista di cinema civile è veramente riduttivo. Ed è un film da rivedere accanto ad altri film sul rapporto tra il potere e il crimine, anche contemporanei come Berlusconi o La Trattativa, oppure semplicemente accendendo il TG, come dicevi, e vedere Il Racconto di Mafia Capitale. Un film da vedere per capire anche l'importanza di un regista che allora è coraggioso e oggi risulta anche profetico, un film che è stato appunto riportato in questa versione restaurata allo splendore originario, un'edizione che tra l'altro è uscita in DVD dal commento del regista e da due interviste preziose, una a Roberto Saviano e l'altra a Raffaele Cantone, che è presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. E allora, questo era il nostro game della scorsa settimana, Le Mani sulla Città. Invece ci spostiamo, dicevo, in territorio televisivo per due segnalazioni dai palinsesti della prossima settimana molto, molto particolari, cominciando da Paul, un film del 2011 diretto da Greg Mottola, che racconta di un personaggio davvero particolare, un po' fra una sorta di ET e un alter ego dell'anima di un terrestre di oggi. Sì, è fondamentalmente la storia di due appassionati di film di fantascienza che in viaggio verso la mitica e proibitissima Area 51 incontrano il Paul del titolo, appunto, che è, come dicevi tu, una sorta di ET cresciuto come mai ci saremmo aspettati, è sboccato e logoroico e doppiato da Elio di Elio le storie tese nella versione italiana. Greg Mottola è un ottimo regista di commedie, da quelle più indipendenti, autoriali, a quelle più demenziali di formazione, fino a quella chicca veramente delicata e retro di Adventureland, e i protagonisti invece sono due dei più geniali comici britannici di oggi, che sono Simon Pegg e Nick Frost, protagonisti ad esempio di L'alba dei morti dementi, Hot Fuzz e La fine del mondo. Ottimo regista, ottimi protagonisti, un film sicuramente da vedere. E così come da vedere davvero è Italy in a Day, un giorno da italiani, un film firmato da Gabriele Salvatores, che tra l'altro aspettiamo settimana prossima con il suo nuovo film, anche questo un Natale molto molto particolare, il film natalizio e da supereroi di Salvatores, Il ragazzo invisibile. Ma dicevo, in televisione passa il 17 dicembre su Rai Movie alle 18:10 il suo precedente lavoro, che è stato un'operazione notevole, Giulio, cioè quella di mettere insieme l'Italia vista dagli italiani nei frammenti dei telefonini, dei tablet, per raccontare una giornata di italiani, appunto Italy in a Day. Esattamente, cioè il 26 ottobre del 2013 Gabriele Salvatores ha invitato sull'onda del primo documentario partecipativo, si chiamano così, della storia, che si intitolava Life in a Day di Kevin MacDonald, ha invitato appunto gli italiani a filmare frammenti della propria giornata e caricarli online. Lui poi ne ha estratto questo Italy in a Day, che è un documentario fatto di stralci scelti e che restituiscono una visione del mondo solare e ottimista, accompagnata da una delle migliori colonne sonore di quest'anno, dei The Producers. È un film che appunto conferma Salvatores come uno dei pochi autori italiani in grado e con la voglia di cercare vie nuove, produttive, estetiche, anche proprio da un punto di vista industriale per il cinema italiano, come appunto conferma la sua versione del cinema supereroico che era poco in sala, Ragazzo Invisibile. Quindi Italy in a Day su Rai Movie alle 18:10, mentre Paul, forse dimenticati l'orario, era martedì su Italia 1 alle 23:20. Assolutamente, martedì 16, Italia 1, 23:20 per Paul. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati così alla fine della nostra trasmissione, un appuntamento che ritorna sabato prossimo alle 18. Voi restate sempre con noi anche durante la settimana con la nostra pagina Facebook e cliccate mi piace per anticipazioni, trailer, tutti i giorni ne abbiamo una. Grazie a Filippo Reggi in regia, grazie a Silvio Boccaletti in redazione. Appuntamento fra 7 giorni, un saluto da Franco D'Assisi.